Siamo lodati Gesù e Maria. Nella parte conclusiva dello splendido Vangelo che abbiamo letto abbiamo sentito un'espressione molto significativa di San Giovanni. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, che è un'espressione che richiama la prima lettura che abbiamo ascoltato, che è il quarto canto del Servo del Signore, che profetizza in maniera assai puntuale, precisa, le sofferenze che avrebbe sofferto il Redentore per la nostra redenzione. Abbiamo ascoltato testualmente: egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. In questa celebrazione, tutta questa celebrazione tende proprio alla contemplazione di colui che è stato trafitto per le nostre colpe. La parte culminante di questa celebrazione, dopo la liturgia della parola, adesso questa è una celebrazione che si distingue in quattro parti: la liturgia della parola, che abbiamo ascoltato, dove c'è sempre il quarto canto del Servo di Yahweh, il bellissimo brano della lettera agli Ebrei che spiega le sofferenze del Signore e la passione secondo Giovanni. Poi sarà seguita dalla grande preghiera universale, che non è come la preghiera dei fedeli solita, perché come vedrete sarà fatta dal sacerdote. Quella è la preghiera che tutta la Chiesa, allo stesso modo, attraverso il ministro ordinato, eleva al Signore in questo giorno per le intenzioni appunto universali di tutto il mondo. Tenete presente che questa preghiera, così non esagero poi nel parlare nei singoli momenti, può essere ascoltata dai fedeli stando in piedi o, se preferite, quindi per dare una partecipazione diciamo un po' più sofferta e offerta, in ginocchio. Questo è a scelta del fedele. Ma la parte più importante è quella che segue, che è l'adorazione del crocifisso. Il crocifisso sarà solennemente portato dinanzi all'altare dal sacerdote con una serie di acclamazioni, e poi ci sarà il gesto dell'adorazione. Ecco, vi dico, perché le norme del nuovo messale, così capite anche, il sacerdote toglie la casula e toglie anche le scarpe prima di adorare la croce, che poi viene presentata per l'adorazione dei fedeli. Poi vi dirò sul momento come si può fare questo gesto nel nostro attuale contesto. E infine verrà distribuita la comunione attraverso le ostie consacrate ieri. Perché la cosa molto importante è che questa celebrazione, come penso che abbiate già capito, non è una messa, perché oggi la messa non si celebra nella Chiesa. Non si celebra e non si può celebrare, perché oggi, contemplando la crocifissione e la morte di nostro Signore Gesù Cristo, noi contempliamo ciò che la messa è. Perché la messa, sapete che cos'è? È il sacrificio del Calvario, celebrato a nostro Signore il Venerdì Santo. Le messe che celebriamo, quella che ha celebrato lui la sera prima, è stata un'anticipazione, e quella che celebriamo noi, sacerdoti, in forza del potere che il Signore ci ha dato, non è altro che una attualizzazione nel tempo dell'unico sacrificio che tutti ci ha redenti e l'applicazione dei suoi frutti ai presenti e per i vivi o i defunti per cui è applicato. Questa è la messa. Quindi, trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Noi dobbiamo pregare, vi consiglio di farlo vivamente, il Signore di poter vivere almeno una volta nella vita questa esperienza. Non so chi di voi l'ha già vissuta. È una delle cose più belle e più importanti che si possa vivere nella vita. Cioè guardare il crocifisso, che è già una bella cosa. Secondo, comprendere che colui che è stato crocifisso per i peccati del mondo. Non così. Ma poi ci sono due step ulteriori che sono quelli più importanti per ciascuno di noi. Cioè, è stato crocifisso per i peccati che ho fatto io, avendo imparato a riconoscerli, a guardarli in faccia e a chiamarli per nome e per cognome. Queste cose, questo è quello che segue dopo, cioè piangere come bambini, sentirsi colpevoli della morte del figlio di Dio. Ma sapete che significa piangere come disperati? Il terzo e il quarto step sono grandi grazie da parte di nostro Signore. Quando qualcuno le riceve, deve andare a accendere una candela, perché così è. Il problema è che noi non ne siamo consapevoli, ma fino a quando non ci rendiamo conto che il motivo per cui il figlio di Dio è morto in croce non è generico, ma sono stato io stasera durante la Via Crucis, i canti che facevano una volta quelli molto molto popolari, molto semplici ma molto profondi, no? La banda ha già mi ha formato che la suoneranno e noi ci canteremo sopra. Con dure funi, come il reo che ti rogherà, sono stati i miei peccati, Gesù mio perdon pietà, tutti lo canteremo. Ma quando sarà presentato il crocifisso, chi è che guardandolo dice: Signore mio, c'ero io lì, veramente, non metaforicamente. Sapete, ho sempre raccontato una cosa, mi avviso, La passione di Mel Gibson, che ormai c'è qualche annetto, è uno dei film che più si avvicina, neanche troppo bene, anche se qualcuno pensa che fosse troppo violento, ma la realtà delle cose è stato peggio di quello che si vede nel film. Sapete che Mel Gibson non ha voluto recitare nel film, salvo che in un momento, nessuno, quasi nessuno lo sa, quando si vede il martello che si alza e che dà il primo colpo sul chiodo, la mano è quella di Mel Gibson. E lui l'ha voluto fare proprio per esprimere con questo gesto il fatto che lui si sente responsabile della morte del figlio di Dio. Ecco, questo è, dovremmo uscire da questa celebrazione, se uscissimo così, questa è una grande grazia questa qui. Questa è una cosa bella, perché capite, se noi non facciamo questo passaggio, tutto quello che Gesù ha fatto per noi non lo possiamo apprezzare. Sapete che in questo splendido posto, come dicevo anche spesso, insomma, ho fatto cenno anche ieri, c'è la trasgressione sistematica e segno universale della messa domenicale. Perché? Perché non volgono lo sguardo a colui che hanno trafitto, perché la messa è il calvario che si realizza in atto. Ma io posso fare finta che non ci sia o mancare al momento in cui quello che Gesù ha fatto per me non soltanto me lo mette davanti. Quando noi stiamo a messa è come se fossimo stati lì, cioè noi siamo temporali, è per questo che oggi la messa non si celebra, capite? I segni della Chiesa sono sempre molto forti, così come le statue velate che vedete, cioè quando nella liturgia della Chiesa c'è qualcosa, dobbiamo subito addrizzare le antenne, perché la Chiesa non fa cose inutili, su questo imita bene il suo Signore, capite? Il fatto che ci sia una trasgressione generalizzata, cosa significa? Che lo sguardo a colui che hanno trafitto non ce lo volgono questi nostri cari fratelli e sorelle. E questo è un guaio, perché anche se tu non lo volgi, tu l'hai trafitto. E quando saremo morti ci presentiamo tutti quanti dinanzi al nostro Signore, capite? Sia quelli che ci credono, sia quelli che non ci credono, sia quelli che nella vita hanno aperto il cuore all'annuncio del Vangelo, sia quelli che l'hanno chiuso. Sapete come dice il libro dell'Apocalisse, sempre per riprendere il tema di questa omelia, no? Ecco che viene sulle nubi e ognuno lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e davanti a lui si batteranno il petto tutte le nazioni della terra. Fratelli e sorelle carissimi, quando saremo morti, tutti ci troveremo davanti a Gesù crocifisso. Battersi il petto adesso è una cosa molto buona e molto giovevole. Chi si batte il petto al momento della, dopo la morte, è un po' troppo tardi. Quindi chiediamo al Signore che ci dia questa grazia, preghiamo anche per il mondo intero, come faremo con tutta la Chiesa nella preghiera universale, appunto perché tanto dolore del nostro Salvatore non sia sprecato e vanificato dalla durezza di troppi cuori. Siamo lodati Gesù e Maria.